Bon, basta, lascio Gianfranco. Grazie, ciao. Pensavo che avrei dovuto predicare io, ma sono stato preceduto da Carmen. Non mi piace venire in questa chiesa, perché mi sento vecchio. Siete tutti così giovani. Vi vedo tutti così giovani. Quindi la nostra presenza alza un pochettino la media dell'età. No, è bello essere qui dopo tanti anni. L'ultima volta guardavo, sono passati 9 anni da quando sono venuto da voi la volta scorsa, quindi è bello essere qui. E Carmen diceva che siamo sposati da quasi 45 anni, eravamo coi criteri di adesso dei bambini, quando siamo sposati, che adesso l'età media è leggermente più alta, ma sono 43 anni che serviamo il Signore a tempo pieno, quindi abbiamo lasciato presto i nostri lavori secolari a Milano, dove abitavamo, per immergerci in questa avventura nella quale non conoscevamo niente, aiutare persone con grossi problemi di dipendenze, di tossicodipendenze, e da lì si è aperto un mondo. Perché sì, la tossicodipendenza, ma c'erano tante altre cose attaccate che all'inizio non sapevamo, non vedevamo, non ci immaginavamo. E ringrazio il Signore perché non ci fa mai vedere oltre il nostro naso. Perché se ci facesse vedere un po' di più, no, Signore, guarda, lasciamo perdere, non fa per me. Ma ci fa vedere cose passo per passo. E allora possiamo andare avanti nella nostra vita, nella nostra vita cristiana. Ed è un po' di questo che su quale volevo riflettere oggi pomeriggio con voi. E ho dato un titolo a queste considerazioni che faremo. Fare, diventare, essere, avere, non sarà una lezione di grammatica sui verbi ausiliari, ma alcune considerazioni su questo. A volte nella nostra vita cristiana vogliamo fare, vogliamo essere attivi per evangelizzare, per far crescere la Chiesa, per fare l'opera del Signore, come tante volte magari possiamo dire. Oppure vogliamo diventare dei servi di Dio. A volte usiamo la parola ministri perché ci suona meglio, ma la traduzione corretta sarebbe dei servi del Signore. Vogliamo diventare pastori, missionari, diaconi, vogliamo diventare qualcuno. Altre volte vogliamo avere delle benedizioni, ci sposiamo, vogliamo avere dei mariti, delle mogli, dei figli, dei nipoti, la salute, la guarigione. Quante volte noi chiediamo al Signore per avere una cosa, l'altra, quell'altra. Ma c'è un altro verbo, essere. Noi potremmo voler essere qualcuno, voler cambiare chi siamo, cambiare interiormente. Noi viviamo in una cultura che è goal-oriented, orientata a uno scopo. Tutto si fa a progetto. Si fa tutto a progetto. Allora facciamo questo, facciamo un progetto, vediamo tutto in quell'ottica, le missioni, le iniziative, le chiese sono orientate a raggiungere degli obiettivi, degli scopi, dei progetti, che ovviamente quando raggiungiamo quell'obiettivo ci fermiamo, nel senso che dobbiamo rilanciare su qualcos'altro, perché una volta raggiunto l'obiettivo, dove vado? Mi fermo. E E questo lo vediamo anche in tante cose che viviamo intorno a noi. Mettiamo molta enfasi sulla formazione, sulla leadership, sul coaching, per fare meglio quello che stiamo facendo, per motivare, migliorare la nostra performance e così via. Vogliamo una vita cristiana di successo, vogliamo riuscire nella vita cristiana in qualche modo. Ma mi chiedevo, che cosa intendiamo con questo? Cosa vuol dire riuscire nella vita cristiana? Avere una vita cristiana di successo? Di successo per chi? Da quale punto di vista misuriamo il nostro successo? A volte, se ci pensiamo, quando pensiamo a un cristiano di successo, a una persona, pensate a quella che volete, che ecco, io vorrei una vita come quella fratello, quella sorella là. Pensiamo al benessere, magari alla ricchezza, magari una vita nella quale non c'è sofferenza, nel quale i nostri progetti riescono, riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, nel quale siamo felici. Una persona di successo è una persona che affronta degli ostacoli superandoli in maniera facile, miracolosa, o magari non affronta mai ostacoli. Vogliamo una vita nella quale tutto sommato stiamo esorcizzando tutta la sofferenza, tutto il dolore e tutti i difetti. Tante volte noi pensiamo a una persona di successo in quei termini. Un pastore di successo chi è? Un pastore di successo è una persona che predica, tante persone si convertono, la chiesa grande, la chiesa ricca, la chiesa bella, il locale è bellissimo, ha fondato 27 chiese. Ah, quella è una persona veramente di successo. Ogni volta che predica s'alzano centinaia di mani per accettare il Signore nella vita. Tante volte riteniamo queste delle persone di successo. E per certi aspetti lo sono, ma per certi aspetti dipende dal punto di vista. E mi chiedevo, qual è lo scopo della vita cristiana dal punto di vista di Dio? Perché tutto sommato è quello il punto di vista che noi dovremmo avere. Come vede Dio le cose? Qual è il suo punto di vista? Cosa per lui è, quale per lui è una vita cristiana di successo? Anche Dio è goal oriented, è orientato allo scopo. Ma qual è il suo goal, il suo obiettivo, il suo scopo? E mi venivano in mente alcuni testi biblici che mi fa riflettere. Li vediamo brevemente, non faremo l'esegesi di ogni testo. Ma quando Paolo scrive alla chiesa di Efeso, parla di quelli che sono i ministeri, i servizi nella chiesa. E se andiamo a leggere quel testo, negli Efesini, abbiamo detto al capitolo 4, viene detto una cosa, che lui ha stabilito degli apostoli, profeti, eccetera, eccetera, per che cosa? Per uno scopo specifico. Versetto 13 dice: affinché noi giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura, della pienezza di Cristo. Cioè, il suo scopo, sta dicendo Paolo, è di presentare tutti perfetti in Cristo, che siano delle persone diverse. Quindi forse un po' diverso dal fatto che abbiano tante cose, che sappiano fare tante cose. L'accento è sull'essere. Oppure un altro testo, quando Paolo scrive alla chiesa dei Galati, della Galazia, è una lettera complessa nella quale Paolo deve difendersi, tante cose, poi ve la potete leggere tutta per i fatti vostri, ma a un certo punto dice che il suo desiderio profondo, nonostante gli svarioni dottrinali che doveva mettere a posto, è che Cristo prendesse forma nelle persone. Io soffro, il mio desiderio è che Cristo sia formato in voi, non che cambiate modo di pensare, non che incominciate a evangelizzare di più perché la vostra chiesa possa crescere, no, che Cristo sia formato in voi. Oppure un altro testo, la lettera sempre di Paolo alla chiesa di Filippi, una chiesa particolare quella di Filippi. Paolo aveva avuto varie esperienze importanti a Filippi, era stato incarcerato, era stato picchiato, quindi è stata la prima chiesa che si è formata tramite il suo ministero in Europa, nel nord della Grecia. Ha un rapporto particolare con questa chiesa e a loro scrive una cosa interessante. A un certo punto lui fa un lungo elenco, dice: voi mi conoscete, io ho fatto un sacco di cose. Poteva dire di se stesso tante cose. Potremmo parafrasare adesso dicendo: io sono nato in una chiesa, i miei genitori erano cristiani, i miei nonni erano cristiani, i miei bisnonni erano cristiani. Io lo posso dire. Il primo a essersi convertito è stato mio nonno, i miei nonni, materni e paterni. Ma dopo si è convertito anche mio bisnonno. Sono cresciuto nella chiesa, sono stato presentato al Signore quando ero piccolo in chiesa. Mi sono fatto tutte le scuole domenicali che potevate immaginare, mi sono fatto tutti i cambi biblici che potevate immaginare. Non sono mai stato uno scriteriato, non ho mai rubato, ucciso, non mi sono mai drogato, non mi sono mai... Quante cose che ho fatto? Ho servito il Signore per 43 anni a tempo pieno. Ho aiutato un sacco di persone. Potrei immedesimarmi per alcune cose con Paolo. Ma Paolo dice: ma le cose che mi erano di guadagno le ho ritenute una perdita. Anzi, ritengo che tutte queste cose sono una perdita. Io voglio conoscere Cristo. Tutto il resto è spazzatura. Ho fatto tante cose, ma tutto il resto, tutto quello che ho fatto è spazzatura. Il termine è ancora più forte in ebraico, potrebbe essere tradotto letame, proprio una schifezza. Di fronte al fatto di conoscere, di avere un rapporto personale intimo, che Cristo cresca in me. Un altro testo sul quale riflettevo, sempre Paolo, che scrive ancora a quella chiesa in Galazia, e in quel testo mette a confronto quelle che sono le manifestazioni del peccato nella nostra vita, quelle chiamate le opere come della carne, cioè quello che noi facciamo spontaneamente, che ci viene naturale, fa parte della nostra natura, ed è un lungo elenco di cose: inimicizie, idolatria, litigi, invidie, ubriachezza, stregonerie, un sacco di cose. E le mette insieme dicendo: queste cose non vanno bene. Ma il frutto dello Spirito cos'è? Se notate, c'è una grande differenza. Quello che possiamo fare, inimicizie, e quello che possiamo essere. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, non quello che facciamo, ma quello che siamo. Quindi riflettevo su queste cose. Dobbiamo essere per fare. Una volta Gesù ha chiesto: ma Gesù, che cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? E Gesù cosa gli ha risposto? Non dovete obbedire, dovete andare alla sinagoga, dovete andare in chiesa, dovete leggere la Bibbia. No, dovete credere. Anche lì toglie il fare e lo mette sul cambiamento interiore. È vero che a volte Gesù ha anche detto di fare qualcosa. No. Andate a predicare e fare discepoli. È vero, l'ha detto. Però se lo scopo principale di Gesù, di Dio, fosse quello di fare discepoli, ma perché l'ha affidato a noi? Che siamo disubbidienti? Inaffidabili? C'erano persone che forse potevano essere migliori, esseri che potevano essere migliori, gli angeli. Senz'altro avrebbero fatto un lavoro migliore del nostro, più in fretta, senza farsi ripetere le cose 50 volte come facciamo noi. Perché tutto questo? Perché forse lo scopo non era quello. Lo scopo di dire a noi di fare le cose non è tanto per raggiungere l'obiettivo, che è importante, non sto dicendo che non serve. Raggiungere obiettivi è importante, ma c'è qualcosa di più importante: il processo di raggiungere l'obiettivo. Noi a volte siamo così orientati sulla meta che dobbiamo raggiungere che ci dimentichiamo il viaggio che facciamo. Per Dio tante volte è più importante il viaggio, perché il viaggio ci cambia. E se raggiungiamo l'obiettivo o no, non è così importante come il cambiamento che avviene in noi nel raggiungere l'obiettivo. L'itinerario, quello che succede in noi, il cambiamento in noi, è più importante dello scopo che raggiungiamo. Sto pensando a dei personaggi. Pensiamo a Stefano, uno dei primi diaconi, i primi servi. Ha avuto una vita di successo? Considereremmo la sua vita una vita di successo? E cosa ha combinato da Stefano, tutto sommato? Sì, evangelizzava, parlava del Signore, e poi è stato arrestato, è stato lapidato. Non è che ha fatto tante cose. Giacomo, non viene detto niente di quello che lui possa aver fatto. Gli hanno tagliato la testa. Sono stati un fallimento? Da un certo punto di vista potremmo dire di sì. Ma anche Gesù a questo punto potremmo dire che è stato un fallimento. Ha predicato 3 anni. Cioè, su 33 anni, usando le datazioni, diciamo, tradizionali, su 33 anni di vita è andato in giro a predicare per 3 anni, cioè il 10% della sua vita, tutto sommato poca roba. Una dozzina di seguaci in 3 anni. Gesù, tutto sommato, avresti potuto produrre un po' di più. È stato arrestato, è stato condannato a morte, è risorto, va bene, però poi ha detto agli altri di andare a fare, di andare a essere dei testimoni. Perché tante volte noi, quando ci concentriamo troppo sugli obiettivi, perdiamo di vista l'importanza del cambiamento che avviene nella nostra vita cercando di raggiungere quell'obiettivo. Paolo stesso, il grande apostolo Paolo, stavo facendo una serie di predicazioni nella chiesa di Asti sul libro degli Atti. Il grande apostolo Paolo 3 viaggi ha fatto. Non è che è andato in giro per tutto il mondo. 3 viaggi ha fatto, uno in Turchia e 2 Turchia e Grecia. Basta, poi a Roma si è andato perché era prigioniero. In Spagna dove voleva andare non c'è andato. Quindi, tutto sommato, quanto è durato il grande ministero dell'Apostolo Paolo? Ci sono persone che hanno avuto un ministero molto più vasto. Pensiamo a Billy Graham. Però l'Apostolo Paolo, fallimento? No. Perché lui alla fine della sua vita dice una cosa. Dice, la mia vita è finita, scrive a Timoteo, no? Ho finito la mia corsa, però sono soddisfatto perché ho evangelizzato tanto, perché tanti sono convertiti, perché ho fondato tante chiese. No, perché poi di chiese non è che ne ha fondate poi tante. Se andiamo a vedere l'Apostolo Paolo non è che ha fondato decine e decine di chiese. Perché ho conservato la mia fede. Tutto questo percorso ha cambiato la sua vita e lui dice ho osservato la fede. Il resto non serve a niente, il resto è spazzatura. L'impegno nella nostra vita è strumentale al cambiamento della nostra vita. L'impegno, quello che facciamo, è strumentale. A Dio interessa di più chi diventiamo, non quello che facciamo. Il chi diventiamo è più importante di quello che facciamo. Parlavo con un fratello qualche tempo fa delle difficoltà che stava affrontando e tante volte per incoraggiare qualcuno diciamo: ma guarda, sì, hai delle difficoltà, ma il Signore ti sta preparando per il tuo futuro. Tutto questo è una preparazione per quello che dovrai affrontare dopo. È una ti sta rinforzando per quello che dovrai fare. Tanto è vero che, non so se avete mai letto, c'era una battuta che girava sui social che diceva Dio, tutte le prove che ci dà è perché noi le possiamo sopportare, se forse Dio pensa che io sia Rambo, perché me ne dà di tutti i colori, non mi dà requie. E noi pensiamo che sia tutta una preparazione per il futuro. Invece no, tante volte tutto questo avviene perché serve a noi. Non è che io imparo così potrò essere d'aiuto a. No, a volte serve per cambiare me. Giobbe, passati di tutti i colori, perde tutte le sue ricchezze, bancarotta completa, perde in un botto solo 10 figli. Io non riesco a immaginare una cosa di questo genere. Una notizia che ci arriva che abbiamo perso i nostri figli, tutti in una volta. Terribile, non so come. La moglie, che anche lei soffriva, a volte la prendiamo un po' in giro, ma anche lei stava soffrendo, anche lei aveva perso 10 figli, che però non è in sintonia con Giobbe. Avevano gli amici, all'inizio sono stati dei bravi amici, perché finché sono stati zitti, poi hanno cominciato a parlare, è stato un disastro. Quindi anche gli amici lo volevano convincere che lui aveva sbagliato tutto. E alla fine Giobbe cosa dice? Questo mi è servito per conoscerti. Non ha mai scoperto il perché Dio gli avesse permesso tutte queste cose. Però dice, in questo modo io ti ho conosciuto. Noi siamo più importanti degli obiettivi. E nella lettera ai Filippesi, al versetto 10 del capitolo 3, lo scopo di tutto quello, Paolo dice, per conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione. Questo ci piace. Conoscere Cristo e la potenza della sua resurrezione, questo ci piace. ci piace un po' meno quello che c'è scritto dopo. Che cosa? Essere unito nella sofferenza, nella morte. Questo ci piace un po' meno. Perché non riguarda il nostro concetto di vita e di successo. Ma avevi esordito questa lettera, avevi incoraggio, veramente, ve lo do come compito a casa. Leggetevi, non dico magari stasera, domani, una volta al giorno, tutta la lettera ai Filippesi. Non ci si mette tanto, eh. Se vi mettete in un quarto d'ora la leggete tutta, forse anche meno. Quindi non è una mission impossible. Leggetevela tutta, perché in questa lettera l'Apostolo Paolo mette molto in evidenza l'importanza del cambiamento interiore. Abbiate in voi lo stesso modo di pensare, atteggiamenti, schemi di pensiero, che è stato in Gesù, che ha vinto, no, non che ha vinto niente, che è stato obbediente fino alla morte. Questo è lo scopo di Dio. Lo scopo della nostra vita cristiana, diventare simili a Lui. Gesù, a un certo punto, ci viene riportato da Matteo, dice: voi dovete imparare da me che spacco il mondo? No, che sono mansueto e umile. Successo? Non è secondo i nostri canoni. Oppure, c'è stato un bel momento, ce lo riporta Luca, quando Gesù manda i suoi discepoli, andate e predicate, guarite, liberate, vi do il potere per fare tutte queste cose. Loro vanno, tornano, entusiasti, no? Entusiasmo, Signore, abbiamo guarito, abbiamo predicato, abbiamo scacciato i demoni, anche i demoni ci obbedivano. Potere, prestigio, importanza. E Gesù dice: sì, è vero, è stato bellissimo vedere Satana scornato da voi. Se permettete il gioco di parole, della figura tradizionale che noi diamo a Satana. Però dice: non è questa la cosa importante, avete mancato il punto. Non rallegratevi per queste cose, sì, va bene, però la cosa importante è quello che siete, che i vostri nomi sono scritti nei cieli. La cosa importante è che cosa siete, non quello che avete fatto. Quindi nella nostra vita cristiana, quali sono le cose che noi riteniamo di successo? Non il fare, ovviamente, l'essere. Lo scopo della vita cristiana è che Cristo maturi in noi, che Cristo sia formato in noi. Tutto il resto è strumentale. È strumentale a questo scopo principale, in base al quale poi faremo anche delle cose, ma non sarà quello il nostro scopo. Quello sarà una conseguenza, non lo scopo della nostra vita. Noi dobbiamo diventare simili a Gesù. Questo è lo scopo della nostra vita. E a questo punto la domanda che dobbiamo farci è: il nostro scopo qual è? Il mio scopo qual è? Le mie aspirazioni? L'essere cristiano? A che cosa mi porta? Sono cristiano per avere? Così, sono cristiano, io prego e prego tanto e così ottengo quello che mi piacerebbe avere? A volte succede, ma è quello lo scopo? Perché così posso diventare qualcuno di importante? teniamolo anche importante dal punto di vista, diciamo, spirituale. Missionario. Ho letto due libri molto belli, molti anni fa, che si intitolava il primo, La testimonianza di una missionaria in Africa, missionaria svizzera, mi sembra, in Africa. Il primo libro si intitolava Dammi questa montagna. Parte volendo spaccare il mondo, voleva conquistare l'Africa. Il secondo libro si intitola Ci ha dato una valle, ma la sua vita, dice, ho imparato, la mia vita è cambiata in questo modo. Vogliamo essere come Gesù? Essere come Gesù vuol dire affrontare le difficoltà. Vuol dire essere disposti a rinunciare a quello che a noi piacerebbe, non per masochismo, ma se necessario, che cosa ci interessa di più. Cosa abbiamo cantato prima per molto tempo? Ripetendo e ripetendolo. Ti amo, ti voglio, non desidero altro che te. Quante bugie abbiamo detto? Vi siete mai resi conto quante bugie diciamo quando cantiamo? È vero che noi non desideriamo altro che Signore nella nostra vita? No, almeno io rispondo per me, ognuno risponda per sé. No, tante volte no. Perché sì, il Signore, però mi piacerebbe anche questo e quello e quello, e se non ce l'abbiamo, ci rimaniamo mali e ci arrabbiamo con il Signore. Signore, perché? Tu non avevi detto che non volevi altro che me? Che la tua vita dipende da me? Che tu sei il mio tutto? Non avevi detto tu? Tu sei il mio tutto? Tante volte non è vero. Ma è questo il nostro scopo. Che Cristo maturi in noi, perché Lui sia il nostro tutto. Che Lui ci dia quella soddisfazione profonda, quella pace. Prima ci siamo stati con pace. L'augurio che la pace del Signore sia in noi, la cosa più importante. Questo vuol dire che se la cosa più importante, le altre cose non dovrebbero essere così importanti. Dobbiamo essere disposti a rinunciare a quelle altre cose, perché non sono fondamentali. Come diceva l'Apostolo Paolo, tante cose belle aveva fatto, ma alla fin fine, che cos'è che mi porto dietro? Cristo in me, non quello che ho fatto. Come vogliamo essere ricordati? Come vorremmo essere ricordati? Come vorremmo essere conosciuti? Come persone che fanno tante cose? O come persone che sono delle persone che assomigliano a Gesù? Pensiamoci. E preghiamo un attimo, passiamo un momento in preghiera e riflettiamo, diciamo, Signore, che cosa devo cambiare nella mia vita? Quali sono le mie aspirazioni, i miei scopi? Siamo Jesus oriented o no? Se la nostra vita non è proprio così, chiediamo perdono e rialleniamoci. E man mano che il Signore ce lo fa vedere, prendiamoci un impegno fra noi e Lui. Magari possiamo alzarci in piedi, man mano che il Signore ci convince, non in tutti in piedi tanto per, ma potrà essere una persona, due, tre, cento, non lo so. Ma che ci alziamo solamente quando ci rendiamo conto che il Signore ci ha detto devi cambiare quella cosa, c'è quella cosa che non funziona, riallineati coi miei scopi per te. Signore Gesù, perdonaci per tutte quelle volte che ti chiamiamo Signore. Dichiariamo che tu sei il padrone assoluto della nostra vita e poi viviamo come piace a noi, di testa nostra. Per tutte quelle volte che diciamo che non vogliamo altro che te, e poi di fatto siamo attirati e siamo orientati nella nostra vita a tante altre cose. Perdonaci per tutte quelle volte che tu non sei veramente il punto focale, il nostro obiettivo, quello verso il quale stiamo correndo, la nostra meta. Ma grazie. Grazie perché, come abbiamo cantato, nonostante i nostri fallimenti, nonostante le nostre cadute, nonostante tutti i pasticci che facciamo, tu ci vuoi bene. Tu sei ancora disposto a tirarci in piedi e dire: dai, facciamo un altro pezzo di strada insieme. Grazie perché non ci molli, grazie perché la tua parola dice che hai cominciato in noi qualcosa e non la pianterai a metà, la vuoi portare fino alla fine, vuoi completare quello che hai iniziato a fare in noi. Grazie perché lo Spirito Santo ci convince delle cose sbagliate che stiamo facendo, dei nostri atteggiamenti sbagliati, della tua giustizia. Grazie perché ci dà la forza per vivere una vita come piace a te e che questo sia veramente il nostro obiettivo, l'obiettivo della nostra vita, che gli altri, che noi possiamo vivere per avere te formato in noi e che gli altri possano dare questa testimonianza alla nostra vita. Non che abbiamo fatto tante cose, ma che siamo una persona che assomiglia a Cristo. Grazie Signore Gesù, che lo Spirito Santo riempia la nostra vita e ci tiri le orecchie per quelle cose che dobbiamo cambiare e ci consoli per quelle cose a cui sappiamo che dobbiamo rinunciare, perché tu sia sempre più presente, sempre più formato e apparire nella nostra vita. Amen.